America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Direi oggi cominciamo con una classifica da sempre storica, quella di Forbes, degli uomini più ricchi del mondo. Carlos Slim resta l'uomo più ricco del mondo, magnate messicano delle telecomunicazioni, precede ancora una volta Bill Gates. Berlusconi è al 194esimo posto con 6,2 miliardi, Renzo Rosso è una new entry con 3 miliardi di dollari. Ma vediamo la fortuna di Carlos Slim, 73 miliardi di dollari di patrimonio netto, Bill Gates 67 miliardi di dollari e al terzo posto si affaccia al posto di Warren Buffett Amancio Ortega, uno spagnolo, il patron di Zara, la catena d'abbigliamento, 57 miliardi di dollari, direi diventa anche il primo europeo. Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, per la prima volta fuori dal podio dei primi tre, 53,5 miliardi di dollari, seguono poi Larry Ellison di Oracle, 43 miliardi, il sindaco di New York, Michael Bloomberg, al 13° posto con 27 miliardi di dollari. Ma vediamo i primi fra gli italiani. Michele Ferrero è al 23° posto a livello mondiale, ma ha una fortuna di 20,4 miliardi di dollari. Leonardo Del Vecchio, 49° posto. Leonardo Del Vecchio, Luxottica, ve lo ricordo, 15,3 miliardi di dollari. Miuccia Prada, 78° posto, 12,4 miliardi di dollari. E poi, poi Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, Stefano Pessina, Silvio Berlusconi, appunto, vi ho detto al 194esimo posto con 6,2 miliardi di dollari. In tutto ci sono 1.426 miliardari al mondo. Ma dopo aver parlato di ricchezze, parliamo di cultura. America 24. L'anno della cultura italiana in America, ve ne ho già parlato, anzi vi ho dato delle anticipazioni, abbiamo fatto un reportage da Washington quando ci fu l'inaugurazione della statua di Michelangelo alla National Gallery, il Davide Apollo di Michelangelo, e dunque gli eventi continuano. Abbiamo eventi letterari, abbiamo eventi artistici, culturali nel senso più economico del termine, la tecnologia, per esempio, la moda. E che io vorrei tornare sull'argomento parlando più in generale di che cosa la nostra cultura, la cultura italiana, rappresenta per gli Stati Uniti. E ho con me ai microfoni di America 24 un ospite d'eccezione, Gioacchino Lanza Tommasi, che è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura qui a New York, ma che è un accademico e un esperto di musica classica, insegna adesso all'Università di Monaco, è stato il sovrintendente del San Carlo di Napoli e soprattutto, devo dire, Gioacchino conosce benissimo e a fondo l'America, una ramificazione di rapporti personali alquanto straordinari. Buongiorno Gioacchino. Buongiorno. Allora Gioacchino, io direi ci diamo del tu, insomma tu sei un eminente... È un felice ritorno. Ecco, sei un eminente professore, però noi ci conosciamo, siamo amici da anni, abbiamo lavorato insieme anni fa e devo dire io ho apprezzato molto quello che tu hai fatto qua in America. Allora, prima domanda, ma qual è l'elemento di fascino che gli americani hanno nei confronti della nostra cultura? Gli Stati Uniti hanno una struttura accademica che guarda naturalmente fuori dal proprio paese, guarda a est come a ovest. E l'Italia naturalmente è un oggetto di studio assolutamente indispensabile. E cosa sei venuto a fare? Perché sei a New York adesso? Ma a New York bisogna sempre venire perché è un centro d'opinione fondamentale. E poi l'America non è per nulla un paese chiuso. E cerca di stabilire sempre rapporti con l'Italia, o almeno con gli italiani. Con l'Italia forse non sempre li stabilisce, ma con gli italiani li stabilisce sempre. Ecco, questa iniziativa, questo anno della cultura italiana negli Stati Uniti, sta cominciando, siamo all'inizio. Ecco, rappresenta un momento di che genere, secondo te? Rappresenta un momento di sintesi proprio in quello che sono i rapporti, tra l'altro molti, perché quest'anno la cultura italiana negli Stati Uniti vuol dire non soltanto una mostra di scultura o di quadri, non vuol dire soltanto un concerto, ma vuol dire anche moda, vuol dire anche alimentare, vuol dire tutta l'Italia. Ecco, questa cultura italiana nel senso lato, che tipo di appeal ha per l'America? Cosa pensano gli americani quando pensano a noi? Dei singoli operatori pensano benissimo. Per dire, questo anno va benissimo e ce ne saranno altri. Quando sono io c'era la fine di un anno voluto allora da De Michelis e dove c'erano allora molti fondi, per esempio la trilogia goldoniana di Strehler fu un successo colossale, ed è pari, diciamo, a portare, secondo me, nello spettacolo qualcosa pari al Davide Apollo come importanza. Mm-hmm. È uno spettacolo intramontabile in certo senso. Loro desiderano avere queste introduzioni, indubbiamente, però se noi avessimo una costanza, sarebbe meglio, cioè una costanza di rapporti che c'è, perché loro con i nostri direttori di musei, con i nostri studiosi, hanno rapporti, indubbiamente. Gioacchino, tu ci stai parlando giustamente degli interlocutori al tuo livello, i grandi direttori di musei, i grandi professori, le grandi istituzioni, che hanno un rapporto sofisticato con il nostro paese e anche un rapporto professionale intenso. Ma pensa per un momento all'americano medio, all'americano del Midwest, all'americano qualunque. Cos'è che lo colpisce del nostro paese? E questo giro di iniziative culturali servirà magari a rafforzare o a migliorare quella che è la loro opinione del nostro paese? Dunque, qual è la loro opinione di noi, dell'americano medio, e come questo anno americano in Italia potrà funzionare meglio? Beh, l'ambito culturale alto è Los Angeles, New York. Tu sai bene che se andiamo ad Atlanta molte cose non esistono per davvero, però tutto quello che nel commercio, cioè la moda, esiste ad Atlanta, esiste dappertutto. Però poi c'è Madison Avenue e lì, diciamo, sono venuti perché capiscono che è un grande centro commerciale, uno dei principali, e da queste città che poi si determina l'importanza. Cioè il successo della partita si gioca a Los Angeles e a New York. Non c'è soltanto arte nel senso, diciamo, la mostra di quadri o di sculture, però ci sono anche delle tavole rotonde, si parla anche di letteratura, si parla di lingua italiana. Ecco, vorrei approfittare della tua presenza per toccare anche questo tasto, perché Gioacchino Lanza Tommasi è l'erede diretto, è stato adottato da Giuseppe Tommasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo. Sì. Quindi tu sei anche il Duca di Palma e quindi hai avuto un rapporto molto stretto con l'autore del Gattopardo. Ecco, che cosa rappresenta questo libro nell'immaginario collettivo degli americani? Perché questo libro li ha così colpiti e ha avuto questo grande successo, uno dei maggiori successi letterari in America? Vi sono due posizioni, direi, da prendere in considerazione per il Gattopardo. Una è quella italiana, dove il romanzo ha avuto una forte connotazione politica, perché in fondo noi ci risvegliavamo da un dopoguerra tragico, la linea era sempre quella che i padri dell'unità avevano sempre ragione, avevano fatto sempre tutto per il meglio, e questo era un documento che lo riteneva un'unità inevitabile, ma al tempo stesso diceva che si erano fatte delle mascalzonate. Quando tu vai fuori dall'Italia è invece un grande romanzo stoico, cioè un romanzo che ha prima di tutto l'idea che l'uomo ha una sua temporalità, 70 anni di vita. Questa temporalità che ha una diversa prospettiva, inizialmente diciamo l'eros, la gioia della gioventù, e poi questo incamminarsi alla morte. E quindi questo accostarsi stoico alla morte, la morte del protagonista è uno dei passi, diciamo, di letteratura ormai celebri, come quel tratto del lago di Como che studiavamo al liceo, va bene? È qualche cosa che è entrato come un fatto universale del destino umano. Quindi paesi in cui la Sicilia non sa dov'è, i principi siciliani non sanno nemmeno che cosa diavolo sia, è un libro che invece ha moltissimo da dire. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bruno Mars, uno dei grandi artisti americani dell'ultima generazione, è in corsa per diventare la settimana prossima il numero uno di Billboard per il suo ultimo disco, Unorthodox Jukebox. Oh,